Dal Vangelo secondo Matteo. Perciò chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli. E chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome, accoglie me. Guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli, perché io vi dico che i loro angeli nel cielo vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. Oggi si ricorda la memoria degli angeli custodi. Che cos'è questa festa, questa memoria? È una memoria, un giorno particolare in cui noi celebriamo i nostri angeli custodi. Chi sono gli angeli custodi? Innanzitutto, chi sono gli angeli? Gli angeli esistono veramente, è un dogma della nostra fede. E perché è un dogma della nostra fede? Perché questa verità è presente lungo tutta la Sacra Scrittura. Nella Sacra Scrittura abbiamo tantissime affermazioni della presenza degli angeli e oggi addirittura degli angeli custodi. Perché? Perché Gesù ci dice di non disprezzare i bambini. Perché dice? Perché io vi dico che i loro angeli nel cielo vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. Cioè Gesù ci dice che ognuno di noi ha un angelo custode. Che sono gli angeli custodi? Sono delle persone non umane, ma persone appunto angeliche, ossia delle persone, la persona, ricordiamolo, non è quella che ha il corpo necessariamente, la persona umana sì, ma la persona dell'angelo non ha il corpo, ma è un essere spirituale capace di intendere e di volere, di conoscere e di amare. E ognuno di noi al battesimo ha ricevuto un angelo, cioè una persona angelica che ci sta accanto e che ci protegge, ci suggerisce cosa fare, ci consola. Ricordate che anche nella Passione Gesù viene consolato da un angelo. Sì, gli angeli ci sono, esistono. Allora oggi cerchiamo di essere più devoti al nostro angelo custode, di ricordarcelo. Esiste anche una preghiera che dice appunto: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Proviamo oggi a dirlo con più devozione, questo angelo di Dio. Proviamo a rivolgerci a lui. Ecco, mio padre mi ha inculcato, come vi dicevo tante volte, la fiducia nella divina provvidenza. E un aspetto di questa divina provvidenza è proprio la presenza degli angeli. Infatti, oggi, durante la messa, viene letta a un certo punto una colletta. La colletta è una preghiera che si legge a conclusione dei riti di introduzione. E questa colletta dice: O Dio, che nella tua misteriosa provvidenza mandi dal cielo i tuoi angeli a nostra custodia e protezione, fa che nel cammino della vita siamo sempre sorretti dal loro aiuto per essere uniti con loro nella gioia eterna. Ecco, vedete che gli angeli sono veramente provvidenziali perché ci stanno accanto, ci consolano, ci spronano, ci aiutano. Rivolgiamo la nostra attenzione a questi esseri celesti, a questi esseri che veramente esistono, che veramente ci vogliono bene, che veramente ci proteggono. E per concludere vorrei citarvi questa frase che dice così: Sii un angelo per qualcun altro ogni volta che è possibile. Sarà un modo per ringraziare Dio per l'aiuto che il tuo angelo ti ha dato. Buona giornata.